ci piace, non siamo amici che fate voi. Devi tagliare tutto il bacio, capito? C'è un bacio tagliato di un gol, buh. Addirittura. No, allora sarebbe andato sotto a Lachi, Ornia, Magna, Zona, 10 o 12 mesi. Siamo andati in infermeria, sarei buttato giù, non me la metto quanti si chiamava, Rosaria. Dico male. Cazzo, no, la prima testa si sono parate. Siamo fatti la luce, si sono parati tutti, isso, cazzo. Ma andiamo niente, piccolini me. Cazzo, ma tanto, pazzia, da Magnazzona qua. Da voi, avete rispettato tutto. Quasi attaccato a Lucca, lì via Marchenotti. Ma tu lo vedevo da cazzo via lo pingo questo qua a cazzo. Ma però ho detto, ma scusa, prima di consegnare le patate a portare le patacriti, ma perché non mi fate una bella doccia tutti quanti insieme? Ma non sarà di subire se è stato quello per almeno. Non sarà stato di subire se è stato quello per almeno. Aiutano le guardie, cazzo, non possono aiutare a me. Infatti, diciamo che aiutano questi immigrati, danno 30 euro al giorno, capito? E non possono aiutare a te che sei cittadino italiano, cioè non vedo motivo perché non ti debbano aiutare, ecco. Perché loro, ma lei vive con sua madre, qua, bomba, c'ha detto scappa sua madre, cosa c'entra? Mia madre non può scappare, non può durare un interno, ha capito? C'ha già una certa età, e poi cosa c'entra fatto? Mettono le cose, e se ne devo andare via mia madre, cosa faccio? Me ne rimango così come un coglione. Quello è vero, non c'entra niente quello, uno stai parlando di te stesso, non c'entra tua madre, tu stai cercando i tuoi diritti e basta. Giustamente, io sto cercando i diritti, però se i miei diritti questi non li riconoscono, allora tanto vale che cosa cazzo devo fare. Secondo me che molta gente cazzo perché disparate, a cazzo pigliare la pistola e a cazzo si spara. Ci si arriva pur piano piano tramite conoscenza ancora qualcosa che esce. Lo so, è un periodo grigio, purtroppo è un casino, Giuseppe. È un periodo grigio, cazzo, con la protesta di cazzo di chi? Del presidente Cappellacci, cazzo, sta bloccando tutto quanto, però cazzo vuoi fare? Un periodo grigio che sta sempre piovendo. Piovendo perché cazzo, qua adesso no, qui di fronte a me, di fronte a casa, c'è questo cantiere che non conosco, che io conosco qua, che è sotto, che abita sotto il mio palazzo. E vai, dice, se mi danno il buco, volete, ti faccio fare un paio di giornate. Ma se non mi liberano per iniziare, è inutile che qua, il discorso è quello. Meno della metà, molto bello. professionalmente non è comodo, cioè 200 rotti euro più la spedizione di microfono di nuovo, ma c'ho più di 1000 euro di microfono, come fai? No, ho preferito prendere quello, Gianni. Sei tu che dici 200, adesso puoi farlo con quello, perché no, se ti lo frici mi ha fatto San Giulio, se puoi parlare con una parte a vedere cosa c'ha. Si chiama l'Unis AM508, poi c'è quello con l'equalizzatore simile all'MC85, che è il 908, quello costa qualcosa in più, però io preferisco prendere il 508, che lo conosco, lo attacco a questa radio nuova della I come sempre, va bene, tanto ti manda il microfono più tre cavi in dotazione I come che uno dei AESU già pronti. Quindi non farà per collegare il cavetto, la radio sta funzionando, capito? Oh, ragazzi, la cena è pronta, ti saluto Gianni, c'è Antonio Forchetto qua, Giuseppe, che è in macchina, e Luca, vai per chi vuoi, io vi saluto, ci sentiamo dopo che la cena è pronta, dopo, ciao a tutti. Ok, Claudio, Roni, con la R. No, Adonis. Adonis. Sì, perfetto. Adonis 508, poi guardo quello del computer. Ci sentiamo qua, a me mi stanno buttando giù a scendere a cenare. Ciao, mamma, li riprendo dopo. Buonasera a tutti, ciao Falchetto, ciao a tutti gli altri amici. Però mi rimpassonano. Gappa, buonasera, a dopo, dai, se entrate già sono qua. A dopo già. Sto scendendo tutto lì punti 131, tranquilla, poche macchine. Oh, se ne vanno abbastanza bene, che ha aspettato. Botte, bella radio. E adesso qua mi sa tanto che non aspetto l'antenna. E faccio una cosa, però devo creare la trazione, mi sa tanto che me la sposto, infatti c'è il cappotto al baracchino. E da parte ci rimetto l'antenna della radio, buonanotte. Ah, e l'antenna dove la metti? L'antenna della radio davanti a un posto suo, l'antenna del baracchino la metto al centro cappotto. Ah, non la devi fare il buco? Faccio il buco, non c'è problema, un po' di silicone, butto, si piatta. Ah, positivo, già va bene. Tanto non me la devo già, va bene, non me la fatti nulla, questa adesso finché cammina, che va, me la tengo. Tanto c'ho pochi mila chilometri, c'ho 180.000 chilometri, ne avrei da fare ancora, anche c'è vecchia. Ehi, infatti, cos'è il diesel? Già, 1.800 turbo diesel, non mangio di avvalli. Ehi, già, quale chilometri quella, io voglia. E anche perché mi aveva detto il capo ufficiale della Ford, mi ha detto guarda questi sono motori di pelle italiano. E si dopo, una volta di pelle italiano è giusto, filtro olio, filtro gasolio e filtro aria, metto dell'olio, ma sono macchine che fanno anche 400.000 km tranquillamente. Sì, sono macchine buone, io non grido. E se invece vado un po' di rumore, ma è un trattore, cazzo. Beh, il diesel è un po' di rumore, lo fa, ma già sono motore di quando, dai. Ma questo è perché modello vecchio, avevano fatto quello dopo, il 16 valvo era un rumoroso. Beh, il 16 valvo era più silenzioso, così. Sì, questo arriva un po' più rumoroso perché l'8 valvo, il 16 valvo era meno rumoroso. E vabbè, ma per quello che lo so io è più che sufficiente. Sì, già lo dico, già va bene. Bene, ascolti, va. A voglia, non vedo niente perché c'è un altro cassetto e quindi non ti posso dare il controllo né niente. No, di radio, bene sto scelto. Ok, perfetto. Kappa. Già va bene. Ehi, Aldrino. No, ma io finché dura la macchina l'avrei tenuta, poi si verrà. Ah, vabbè, io c'ho questa e adesso vediamo di riuscire a far prendere la patente a mia moglie e lì c'è un'altra. Perché le macchine c'hai? Questa qui era un appunto che l'ho preso 1.400 euro col passaggio. Buono. E va sempre fuori, questa l'ho presa a Torino e l'altra l'ho presa a Roma. Molto riparato. No, questa era 2005 per passaggio e me ne è venuto 2009 e l'altra 1.400 col passaggio. Ma lì avete venuto a poco, dai. Poche linee, e funziona bene lo stesso anche perché si invecchia come perché nell'86 appunto, però funziona una belletta, funziona benissimo. Sì, ma gliela metti molto ogni tanto, sì. E ogni tanto la uso. Positivo, no, anche per la batteria se scarica e costa. E già si è scaricata, infatti uno di questi giorni devo attaccare i carretti, la metto in moto, questa la lascio proteggiata e mi so quella. Positivo. Sei vicino a casa? E adesso sono vicino a casa, io attendo la via dietro a casa. Capparocci. Lo vedo dallo smitter. Beh, scende sicuramente. Appena sceso, sì. E questa già va bene? Questa va bene. No, era bravo perché stavo dicendo l'altro giorno, non hai visto che ero sotto casa con quella piccolina, non mettono l'ho che ascoltavo, invece con questa che è più, rimane più in giù, più lungo nel fosso, nella via, ti sentivo tranquillamente. Positivo, più lunga l'antenna. No, e beh, questa è attaccata alla macchina, quella là era sul tetto, ti ricordi quella abbiamo fatto? Ah, ho capito. Quella l'ho messo prima sul tetto, non ti sentivo. Con questa in macchina, in strada, ti sentivo tranquillamente, senza problemi. Ma quale, quella nera? Quella nera, ti ricordo non ti sentivo per niente, invece con questa sì. Con questa della macchina sì. Ah, Cappadoce. No, già va bene. E questa è una, si chiama PLC 2800, questo è meno male, stanno sempre funzionando bene. Sì, ma sono ottime antenne, sono quelle, radiano bene. Ascolta, io chiudo le scuole di fatto e attacco la casa. Va bene, Mauri, dai, già siamo qua, dai. Così. Ehi, mi sembrava che ti eri perso. No, stavo ascoltando. passando e anche lui già arrivava a fondo scala. Cosa c'ha sotto, piccolino? No, ma chi lo so e basta. È come la mia. Ehi, la mai della mamma ti arriva bene, c'ha la volantina, capito? Verticale no, non è vita l'antenna mia, le ho cambiato un'altra e ne ho messo. Quella è tanto Mario? Via. No, ma con quella dici bene, con questa è la signora antenna lo stesso. E lo so, c'ha il coso nero, però sotto c'ha il pomolle, hai capito? Sì, la conosco. Mi fido sempre di lui perché di altra gente no, adesso può darsi che il tubo me lo fa, se me lo procura loro, che era lui se ce l'ha. Forse molto tempo ti pagare con l'antenna, Giuseppe. Questa? No, io la devo ancora pagare. Quanto te l'ha lasciata? 30 euro. No, buona poca. Non so, ma io ho detto che quando ritiro i soldi ancora non mi ha pagato quello là, quello di anche della stagione, capito? Quando ritiro quei soldi glieli do. Positivo, diciamo bene. Certo, ma guarda, quanti mesi sono passati, io finito a settembre, siamo in novembre e ancora non mi ha pagato. Miserabile sono. Cosa devo fare? Devo scendere giù, tirare il collo, cosa devo fare? Dimmi, dammi consiglio. Ora pure al collo ci vuole dopo il sapore. Ma il discorso è questo, che intanto dice sempre che lo stai incassando, ha dato ingestione il ristorante della pizzeria, cazzo, a voglia che questo qua accanto ogni mese o qualcosa, va bene che ci avrà anche i pagamenti suoi, però prima deve pagare i dipendenti, non ho capito. Lo credo bene, non ho capito io. Ce lo riparo, una bella denuncia, vedrai che lui ti paga subito, senza perdere tempo. Ma non sai quante denunce c'ha, tu. Quattro quattro, gli hanno fatto già 6 denunce ed è andata sempre bene, mi hai capito? Hanno già denunciato 6 persone. Ancora, dal fatto che lui non c'ha niente in tentata, capito? La portata è quello, non lo fanno pagare. Bene o male lo fanno pagare. Ma io se vado in tribunale tanto mi costa il doppio questa cosa, ritirami questi soldi, capito? No, a te non ti costa niente, a chi costa, a lui non a te. Insomma, tanto adesso gli ho fatto già mandare la lettera della mia avvocatessa, poi vediamo un po' e vediamo cosa ne esce fuori. Ciampanocci. Vediamo un po' cosa... E ancora non ha risposto. Ci vediamo. Vediamo un po' cosa tanto ne esce fuori. Io mi la devo sentire questa settimana l'avvocatessa. Vediamo cosa mi risponde. Senta la Maria, cazzo, di far lavorare e non pagare. Cosa brutta. Gli ho fatto telefonare a mia madre. Cosa vuoi altro? E dice, ma signore, abbiamo avuto pagamenti qua, boh. E mia madre gli ha risposto, ma a me i pagamenti vostri non me ne interessa niente, hai capito? Mio figlio i mesi li ha lavorati e dunque si pretende di avere i soldi che ha lavorato, non sta chiedendo né più né meno. Vabbè, ma guarda, se così no, tu stai chiedendo il tuo. Non ho capito, non è che sono pochi di soldi, non sono 100 euro, no, non è che mi deve dare la bellezza, che mi deve dare 3 mesi di lavoro ancora, e sono 8, 16, 24, sono 2400 euro mi deve dare. E così che non sono sciolini, no? Non sono sciolini, no, perché tanto io ho ancora pagato in tasse altri 6 mesi qua di condominio, e dunque... 75 euro cazzo al mese, cazzo, fate il conto. Ui, per carità, guarda. Ui, sai niente, può pigliare le muscia, capita? Non si può pigliare l'opera. Andate a lavorare senza andare su, è brutto, una cosa brutta, Sì, ma quando gli ha telefonato mia madre, gli ha detto, ma... mio figlio non ha voglia di lavorare, non ha voglia di lavorare, che non scenda, ne prendiamo un altro, ma mia madre gli ha detto questo, no? C'è, voi prendete un altro, lo dovete pagare, sì, ma non ne diamo lo stesso tanto che diamo a suo figlio, hai capito? Quella persona vuole passare una ponte, te lo dico io. E non la barba, scendo giù e le metto la mano addosso, io faccio la radio e la faccio al torto. Ma non potevo dire, no, Giuseppe, io bisogna che lo fate da, se lo volete o non volete, certo, vai avanti con Brisio, ti pago i discorsi del tavolo e io sempre un'altra persona, uno dei soldi, cioè sempre un'altra persona, brucia con un'altra persona, non la bruciate a te, né più né meno. Giuseppe, non ho capito. Io adesso aspetto questa risposta dell'avvocato, poi vediamo, e le mando i carabinieri, poi altro non le posso fare, o le mando la fianza. Ehi, ehi, va ora che vado a fare una piccola carica, dai Giuseppe, ci sentiamo dopo. Dica, buona carica anche a te, dai. Ciao Giuseppe, ci sentiamo dopo, dai. Ciao, ciao. Ciao Giuseppe.